Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. L'anno seguente, in aprile, Elizabeth ebbe un bambino. Non lo mise al mondo in clinica. Mia madre volle, pretese, ordinò che partorisse in casa. Io avevo generato, voluto, preteso, ordinato questo figlio. Elizabeth l'aveva desiderato. A quel tempo amavo Elizabeth e dunque ero geloso. Io non potevo altrimenti rimuovere o cancellare la professoressa Yolan Satmari dal ricordo di Elizabeth, così mi figuravo allora, se non generando un figlio. La prova visibile della mia superiorità. Dimenticata e cancellata fu la professoressa Yolan Satmari, ma anch'io, il vecchio Trotta, fui mezzo dimenticato e mezzo cancellato. Non ero più il Trotta, ero il padre di mio figlio. Al battesimo lo chiamai Francesco Giuseppe Eugenio. Posso dire d'essermi totalmente trasformato dal momento in cui nacque mio figlio. Czojnicki e tutti gli amici che abitavano nella nostra pensione mi aspettavano nella mia camera a pian terreno, così eccitati come se fossero loro in procinto di diventare padri. Il bambino venne al mondo alle 4 di mattina. Mia madre mi dette l'annuncio. Era mio figlio. Un essere paonazzo, brutto, con la testa troppo grossa e le membre che facevano pensare a delle pinne. Quest'essere strillava senza requie. Immediatamente mi affezionai a lui, a questo essere disceso dai miei lombi, e nemmeno potei sottrarmi al banale orgoglio di aver generato un figlio e non una figlia. Anzi, mi chinai, per vedere meglio, sul suo minuscolo sesso che aveva l'aspetto di una piccola virgola rossa. Non c'era dubbio, era mio figlio. Non c'era dubbio, ero suo padre. Sono esistiti milioni e miliardi di padri da che esiste il mondo. Io ero uno fra miliardi, ma nell'istante in cui potei prendere fra le braccia mio figlio, provai un lontano riflesso di quella ineffabile, sublime beatitudine che dovette colmare il Creatore il sesto giorno, quando egli vide la sua opera imperfetta, pur tuttavia compiuta. Mentre tenevo fra le mie braccia quella cosina minuscola, urlante, brutta e paonazza, sentivo chiaramente quale mutamento stava avvenendo in me. Per piccola, brutta e rossastra che fosse la cosa fra le mie braccia, da essa emanava una forza indicibile. E più, era come se in questo povero tenero corpicino si fosse accumulata tutta la mia forza, come se tenessi in mano me stesso e il meglio di me. L'istinto materno delle donne non ha limiti. Mia madre accolse il nipote appena arrivato come se l'avesse portato in grembo lei stessa e su Elizabeth trasferì quel che ancora le restava della sua capacità di amare. Soltanto ora che aveva avuto un figlio mio, dei miei lombi, lei era diventata sua figlia. In realtà Elizabeth non fu mai niente più che la madre di suo nipote. Sembrava che avesse atteso proprio questo nipote per prepararsi a morire. Cominciò a morire, posso ben dirlo, lentamente, come lento era stato il tempo della sua vita. Un pomeriggio non fece la sua consueta comparsa nella nostra camera al pian terreno. Una delle due cameriere riferì che mia madre aveva mal di testa. Non era mal di testa. Mia madre aveva avuto un colpo apoplettico. Era paralizzata dalla parte destra. Così per anni restò per noi tutti un amato fardello, fedelmente custodito. Eppure ogni giorno era ancora per me una gioia il ritrovarla in vita la mattina. Era una vecchia signora. Come poteva morire facilmente? Mio figlio, suo nipote, glielo portavamo ogni giorno. Lei balbettava soltanto: piccolo. Era paralizzata dalla parte destra. Un fardello fedelmente custodito. Amato era mia madre per me. In vita mia non avevo mai sentito attitudine per qualsivoglia professione. Ora finalmente ne avevo due. Ero un figlio ed ero un padre. Per ore sedevo accanto a mia madre. Dovemmo assumere un infermiere. La vecchia signora era molto pesante. Tutti i giorni bisognava trasportarla nella sala, a tavola. Metterla a sedere era già una fatica. Talvolta mi chiedeva anche di spingerla in giro per le stanze. Voleva vedere e sentire. Da quando era malata, le sembrava di lasciarsi sfuggire molte cose, tutto. Aveva l'occhio destro mezzo chiuso. Quando apriva la bocca, era come se la metà destra delle labbra fosse serrata da un morsetto di ferro. Del resto, poteva proferire solo singole parole staccate, per lo più sostantivi. Talvolta si aveva quasi l'impressione che custodisse gelosamente il proprio lessico. Non appena lasciavo mia madre, andavo nella camera di mio figlio. Elizabeth, nei primi mesi una madre piena di abnegazione, a poco per volta si allontanò da nostro figlio. Francesco Giuseppe Eugenio l'avevo battezzato, ma per me e con Elizabeth lo chiamavo Jenny. Col tempo Elizabeth cominciò a uscire di casa spesso e senza motivo. Io non sapevo dove andava e nemmeno glielo domandavo. Andava, che andasse. Anzi, stavo bene quando restavo solo, senza di lei, col mio bambino. Jenny chiamavo e il suo visetto rotondo, bruno, si illuminava. Diventai sempre più geloso. Non mi bastava affatto averlo generato. Avrei voluto anche averlo portato in grembo e partorito. Camminava a carponi per la stanza, lesto come uno scoiattolo. Già era un uomo, e ancora animale, e ancora angelo. Ogni giorno, ogni ora, anzi, mi accorgevo dei suoi mutamenti. I suoi riccioli castani diventarono più fitti, più intenso il fulgore dei suoi grandi occhi grigio chiari, le ciglia più folte e più nere. Perfino le manine acquistarono la loro particolare fisionomia. I ditini diventarono affusolati e robusti. Le labbra si muovevano sempre eccitate e sempre più svelta balbettava la piccola lingua in modo sempre più comprensibile. Vidi spuntare i primi dentini, sentii la prima risata consapevole di Jenny. Ero là quando per la prima volta cominciò a camminare verso la finestra, verso la luce, incontro al sole, con uno slancio improvviso, come per una repentina ispirazione. Più che un atto fisiologico, era un'idea coattiva. Dio stesso gli aveva donato l'idea che l'uomo può camminare eretto. Ed eccolo là, il mio bambino. Camminava eretto. Per diverso tempo non seppi dove Elizabeth passava ore e talvolta giorni interi. Spesso parlava di un'amica, di una sarta, di un club di bridge. I nostri pensionanti pagavano poco e di rado, a eccezione di Hallensberg. Quando Czojnicki, per un qualche caso, riceveva del denaro dalla Polonia, pagava subito l'affitto per 3-4 pensionanti. Il nostro credito nel quartiere era illimitato. Nei conti io non ci raccapezzavo nulla. Elizabeth sosteneva di tenere lei l'amministrazione, ma un giorno, durante la sua assenza, vennero il macellaio, il fornaio, il droghiere, tutti i creditori che mi chiedevano soldi. Io avevo solo il denaro per le mie spese minute. Elizabeth era solita lasciarmi ogni giorno, prima di uscire di casa, un paio di monete sonanti. A volte non ci vedevamo per giorni interi. Io andavo con i nostri amici al caffè Wimmer. Fra i compiti di Czojnicki c'era quello di leggere i giornali, di tenere relazioni sulla politica. Tutte le domeniche andava a Seinhof a trovare il fratello pazzo. Con lui parlava di politica. Ci raccontava, nelle sue faccende private, il mio povero fratello è matto dalle gare, diceva Czojnicki. Per quel che riguarda la politica, non ce n'è un altro che sia così avveduto come lui. Oggi, per esempio, mi ha detto, l'Austria non è uno Stato, non è una patria, non è una nazione, è una religione. Il partito clericale e tutti i clericali cretini che ora sono al governo fanno di noi una cosiddetta nazione, di noi, che siamo una supernazione, l'unica supernazione che sia esistita al mondo. Fratello mio, mi ha detto mio fratello mettendomi una mano sulla spalla, noi siamo polacchi a quel che ho sentito. Lo siamo sempre stati. Perché non dovremmo? E siamo austriaci, perché non dovremmo esserlo? Ma gli ideologi provvedono con una delle loro cretinerie. I socialdemocratici hanno proclamato che l'Austria è parte costitutiva della Repubblica Tedesca. Del resto, sono soprattutto loro gli schifosi inventori delle cosiddette nazionalità. I cristiani cretini delle Alpi vanno dietro ai socialdemocratici. Sui monti alberga la stupidità, te lo dico io, Josef Czojnicki. E pensare, continuò il suo racconto il fratello di Czojnicki, che quest'uomo è pazzo. Io sono convinto che non lo è affatto. Senza il crollo della monarchia non sarebbe affatto diventato pazzo. Così egli concluse il suo racconto. Noi tacevamo dopo discorsi del genere. Sul nostro tavolo gravava un silenzio soffocante che non veniva da dentro di noi, ma scendeva dall'alto. Noi non piangevamo la nostra patria perduta. La passavamo, per così dire, sotto silenzio. Qualche volta, a un tratto, senza che ci fossimo accordati, cominciavamo a cantare vecchie canzoni militari. Vivi eravamo e presenti in carne e ossa, ma in realtà eravamo morti. Un giorno accompagnai Czojnicki a Seinov per la visita settimanale a suo fratello. Il pazzo Czojnicki passeggiava nel cortile. Viveva nel reparto di isolamento, sebbene non presentasse alcuna tendenza a qualsivoglia forma di violenza. Non riconobbe suo fratello, ma quando dissi il mio nome, Trotta, riacquistò subito la sua lucidità. «Trotta!» disse. «Suo padre è stato qui una settimana fa». Il vecchio sottoprefetto Trotta, il mio amico, il sottotenente Trotta, è caduto a Krasnebusk. Io voglio bene a tutti voi, a tutti, tutti i Trotta. E mi abbracciò. La mia residenza è Steinhof, proseguì. Da ora in poi, da che io abito qui, è la città capitale e la residenza imperiale dell'Austria. Io conservo qui la corona. Ho piena facoltà di farlo. Mio zio Leodowski soleva dire: questo piccolo Josef sarà un grand'uomo. Ora lo sono. Ha avuto ragione. Czojnicki cominciò poi a far fogliare cose incomprensibili. Chiese la sua calza. Da quando era al manicomio lavorava a maglia con instancabile zelo. Lavoro alla monarchia, diceva di tanto in tanto. Quando feci il tentativo di prendere commiato da lui, disse: non ho l'onore di conoscerla. «Mi chiamo Trotta», dissi. «Trotta?» replicò. «Era l'eroe di Solferino. Ha salvato la vita all'imperatore Francesco Giuseppe. Trotta è già morto. Da molto tempo ho l'impressione che lei sia un imbroglione». Quello stesso giorno seppi anche perché mia moglie stava fuori di casa così a lungo e così spesso, perché lasciava soli nostro figlio e la mia povera mamma paralizzata. Quando arrivai a casa, infatti, vi incontrai le due uniche persone che veramente odiavo, la professoressa Jolan Satmari e il signor Kurt von Stettenheim. Venne fuori che erano tornati a Vienna già da alcune settimane. Venne fuori che avevano lasciato perdere le arti applicate. Oramai erano tutti presi dal cinema, Alexander Rabinovich, il famoso Rabinovich, lei non lo conosce? Raccontò il signor von Stettenheim, aveva fondato una ditta a Vienna, da capo una ditta. Venne fuori che Elisabeth non voleva assolutamente continuare a fare la mamma. Voleva a tutti i costi diventare un'attrice. Il cinema la chiamava. E lei si sentiva la vocazione del cinema. Un giorno sparì, difatti, e mi lasciò la lettera che segue. «Mio caro marito, tua madre mi odia e tu non mi ami. Io mi sento una vocazione. Vado con Joland e Stettenheim. Perdonami. Il richiamo dell'arte è potente. Elisabeth». Questa lettera la mostrai alla mia mamma paralizzata. La lesse due volte, poi mi prese la testa nella mano sinistra ancora sana e disse: «Ragazzo, ragazzo», disse. Fu come se si congratulasse con me e allo stesso tempo mi compiangesse. Chissà le molte cose sagge che avrebbe detto se non fosse stata paralizzata. Mio figlio non aveva più mamma. La mamma di mio figlio era a Hollywood, faceva l'attrice. La nonna di mio figlio era paralitica. Morì in febbraio. I primi mesi di febbraio morì mia madre. Morì così come era vissuta, con signorilità e in silenzio. Al prete che era venuto a darle l'estrema unzione disse: «Si sbrighi, reverendo. Il buon Dio non ha tanto tempo come la Chiesa qualche volta si figura». Il prete si sbrigò, infatti. Poi mia madre mi mandò a chiamare. Non balbettava più. Parlava speditamente, come ai vecchi tempi, come se la sua lingua non fosse mai stata impedita. «Se mai tu rivedessi Elisabeth», così mi disse, «ma io credo che non succederà, dille che non l'ho mai potuta soffrire. Io muoio, ma non ho alcuna stima di quelle pie persone che in punto di morte mentono e diventano magnanime. Ora portami tuo figlio, perché lo veda ancora una volta». Scesi giù a prendere mio figlio. Era grande, ormai abbastanza pesante. Fui lieto del suo peso mentre lo portavo su per la scala. Mia madre lo abbracciò, lo baciò e me lo ridette. «Mandalo via», disse, «via, lontano. Non deve crescere qui». «Va via», aggiunse, «voglio morire da sola». Morì quella notte stessa. Era la notte della rivoluzione. Gli spari echeggiavano per la città avvolta nelle tenebre e a cena Czojnicki ci riferì che il governo sparava sui lavoratori. «Questo Dollfuss», così disse Czojnicki, «vuole assassinare il proletariato. Che Dio mi perdoni, io non lo posso soffrire. È destinato a scavarsi la fossa con le sue stesse mani. Non si è mai vista una cosa simile». Quando mia madre fu seppellita al cimitero centrale, seconda porta, in città si sparava ancora. Tutti i miei amici, vale a dire tutti i nostri pensionanti, accompagnarono mia madre e me. Grandinava, proprio come quella notte che ero tornato a casa. Era la stessa pioggia maligna e granulosa. Seppellimmo mia madre alle 10 di mattina. Quando uscimmo dalla seconda porta del cimitero centrale, scorsi Manes Reisiger. Veniva con passo grave dietro a una bara e io, senza fargli domande, mi accompagnai a lui. La bara fu avviata alla terza porta, nel settore riservato agli ebrei. Stavo davanti alla fossa aperta. Quando il rabbino ebbe detto la sua preghiera, si fece avanti Manes Reisiger e disse: «Dio me lo ha dato, Dio me lo ha ripreso. Lodato sia il suo nome in eterno. Il ministro ha versato sangue, e anche il suo sangue sarà versato. Scorrerà come un fiume impetuoso». Si cercò di trattenere Manes Reisiger, ma egli proseguì con voce potente: «Chi uccide, così disse, sarà ucciso. Dio è grande e giusto». A questo punto crollò. Lo portammo in disparte mentre il suo dotatissimo figlio Efraim veniva sepolto. Era un ribelle, aveva sparato ed era stato ucciso. Josef Branko si faceva ancora vedere di quando in quando a casa nostra. Non aveva ormai altro interesse all'infuori dei suoi marroni. Quell'anno erano guasti, mangiati dai vermi, e lui, Josef Branko, poteva solo vendere mele al forno. Io vendetti la casa, mantenni solo la pensione. Fu come se la morte di mia madre avesse cacciato tutti i miei amici da casa nostra. Se ne andarono, uno dopo l'altro. Ormai ci incontravamo solo al caffè Wimmerl. Mio figlio soltanto viveva ancora per me. «Chi uccide», aveva detto Manes Reisiger, «sarà ucciso». Non mi curai più del mondo. Mio figlio lo mandai dal mio amico Laverlaville a Parigi. Restai solo, solo, solo. Andavo alla cripta dei Cappuccini. Thank you.